Continuano i corsi alla libreria.input e oggi siamo qui per parlarne con Anna Curcio di La frattura italiana, razzializzazione e sottosviluppo nei Sud Italia. Buon pomeriggio Anna e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buonasera, grazie per questo invito. Allora Anna, saranno 3 lezioni per indagare appunto questa frattura italiana, quindi ti volevo chiedere subito quali saranno gli argomenti principali di questi incontri e magari anche spiegarci un attimo il titolo. Con questo corso, insieme a Enrica Capussotti, che è una storica, si è occupata di questioni legate al Mezzogiorno italiano, ha lavorato appunto sul contesto dell'Italia degli anni 50, di ciò che accadeva nelle fabbriche, nelle città industriali del nord Italia in quegli anni. Abbiamo voluto riprendere un po' un tema che avevamo già affrontato una decina d'anni fa e provare a discutere, a ragionare sulla la atavica questione tra il nord e il sud Italia, ragionando anche in termini di processi di razzializzazione. E allora abbiamo immaginato questo corso proprio con questa prospettiva, provando anche a far interagire approcci disciplinari differenti. Lei è una storica, io mi sono più formata nel campo delle scienze sociali, ragionando anche in termini di studi culturali, quindi è un po' un tentativo di provare ad offrire una lettura di una situazione, appunto la atavica frattura tra il nord e il sud Italia attraverso dei nuovi strumenti. Per questo abbiamo pensato un corso che sarà un corso inevitabilmente introduttivo alla questione, ma attraverso tre snodi principali. Un primo momento in cui inquadrare la questione all'interno della nascita della formazione dell'Europa moderna, quando si costruisce la modernità europea e il suo altro, il Mediterraneo. La nostra ipotesi, l'ipotesi che discutiamo nel primo incontro, è che il Mediterraneo rappresenta in quel momento una cerniera tra il nord in via di industrializzazione, il nord sviluppato, capitalista, il nord dell'etica protestante, che si contrappone al suo altro in Africa, l'Africa che poi diventerà terra di conquista, l'Africa appunto razzializzata. E l'idea è che, diciamo, quindi inquadrando i paesi che si affacciano sul Mediterraneo all'interno di questa lettura, l'idea è quella che quando poi nascerà la nazione italiana alla metà dell'Ottocento, inevitabilmente quella rappresentazione andrà ad informare la costruzione dell'identità nazionale e del suo altro, appunto, nel sud Italia. Per questo parliamo di processi di razzializzazione. Il corso prova anche a dare, diciamo, ad attraversare delle fasi di carattere temporale, quindi attraverso gli anni dell'Unità d'Italia, passando poi alla fase della transizione degli anni 50, per poi discutere anche gli anni 90 e provare anche ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi la costruzione dei processi di razzializzazione all'interno del Sud Italia è quindi quest'idea del sottosviluppo, della funzione del sottosviluppo del Sud nel Sud Italia come elemento costitutivo dello stesso sviluppo capitalistico. Ecco, questa è un po' l'ipotesi che noi proviamo ad articolare nei tre incontri. Il corso si concluderà con una tavola rotonda a cui abbiamo invitato a partecipare alcune realtà che nei diversi territori italiani hanno provato ad interrogare in termini più di politica sui territori, in termini più militanti, possiamo dire, questa questione. Sono realtà anche fra loro abbastanza differenti, con interventi più o meno diciamo militanti, con approcci più o meno di analisi alla questione, che hanno anche delle posizioni molto differenti. Però ci interessava, appunto, dopo aver discusso in termini teorici la questione, provando a tracciare delle coordinate attraverso cui provare a tessere un ragionamento, una riflessione, un'analisi più specifica sulla questione, provare a capire come, cosa questa analisi che abbiamo intenzione di confrontarci possa essere utile, appunto, direttamente dove la questione è, appunto, diventa un'esperienza immediatamente politica. Tre incontri e una tavola rotonda conclusiva. So che gli incontri saranno sia in presenza, ma anche ci sarà la possibilità di seguirli online, quindi ti volevo chiedere come si può partecipare in entrambi i casi, come ci si può iscrivere, ecco. Allora, per iscrivere, diciamo, c'è un indirizzo email dedicato che è formazione.input@gmail.com, indicando come oggetto dell'email la frattura italiana, si può partecipare al corso. Il corso è per, diciamo, i soci dell'associazione, perché appunto è una delle iniziative di Punto Input, che tra le varie cose che fa anche questo progetto di formazione politica. Quindi bisogna essere soci dell'associazione per partecipare. E la partecipazione può essere sia presenza appunto nella sede di via Mascarella 104, o c'è anche la possibilità di seguire il corso online. Appunto, iscrivendosi al corso si riceveranno le indicazioni per la partecipazione online, insieme a tutta una serie di materiali bibliografici e testi di riferimento che possono aiutare appunto a riflettere e ragionare sulla questione, ecco. Perfetto, Anna, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino appunto queste lezioni. Vogliamo ricordare anche giusto le date proprio al volo? Allora, si svolgerà tutti i mercoledì a partire dal prossimo, quindi dal mercoledì 27 aprile, e ancora il 4 maggio e l'11 maggio. Mercoledì 18 maggio invece ci sarà questa tavola rotonda conclusiva. Quindi io, come dire, aspetto chi avrà voglia di partecipare al nostro corso lì nella sede di via Mascarella, o eventualmente anche online. È un'occasione per poter discutere di un tema forse ancora troppo poco discusso. Assolutamente. Grazie ancora, Anna. Grazie a voi.